Pensionati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Radicati a Lime, Savi, Gulli, Greci e Bizantini, uniti in giusto stile, Oce, Gulli, Giamaicani, Lime, Diede, Due, De Castabieni. Se non sei scelto mai delle radici catieni. Non è tenuta da squalla, il colpo di testa di Bonucci, il salvataggio e poi il gol che viene segnato al suo debutto in azzurro proprio da Graziano Pellè. 1-0 per l'Italia di Adina. Come ti parli con Conte in nazionale? Cioè, se vi parlate in dialetto oppure... No, italiano è anche pedalare, bisogna lavorare tanto, è importante. Sta bassa e pedalare. Sì, è una persona che a me piace particolarmente perché dopo aver avuto Mangalle e Kuman sono gente che lavorano molto sui dettagli. Allora, Salentino, forza Italia, speriamo che ancimo queste due partite proprio con faccio lo meglio possibile. Go. Lei può essere un giocatore importante perché è un giocatore fisico e soprattutto quando incontri squadre che si difendono nella propria area. Lì hai bisogno comunque di far arrivare la palla su un attaccante forte fisicamente, che difenda bene la palla e su quella palla poi trovare delle soluzioni di giocata. E poi nella nostra rosa non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche. Sta avendo un po' di tristezza, devo dire la verità, dopo l'Italia di ieri sera, questa copertina molto bella, bravi Franco Piantanini, il nostro autore, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia, bravi, però mi stava venendo un po' di malinconia. Salento Italia, l'unica cosa buona che ci portiamo a casa da Malta è il gol di Pellè, 3 punti, zitti e pedalare. Eppure, a me verrebbe abbastanza voglia di difendere l'indifendibile, non per al solito provocare, o se volete provocandovi, anzi, voglio tutti i salentini disponibili in questo momento all'ascolto all'800 24 00 24. Tutti i salentini all'ascolto in questo momento, chiamate. Dicevo, difendere l'indifendibile perché l'Italia è stata avvilente ieri sera, è stata una cosa brutta, dopo essere stata avvolta dall'Azerbaigian e aver vinto per miracolo quella partita, si è incagliata a Malta e Schettino stavolta non c'entra. Però devo dire che giocare partite come queste è davvero come nuotare in una piscina di miele o di marmellata, è veramente difficile, perché al di là di, è chiaro, l'avversario non voleva niente, quint'ultimo nel ranking mondiale, giocatori semiprofessionisti, la squadra non vale niente calcisticamente. Però anche loro sono 11, almeno per un certo periodo, perché poi quando sono rimasti in 10 è andata anche peggio. Sono 11, hanno un allenatore italiano che gli dice: tu stai lì, tu vai là, correte tutti quanti, non dategli respiro, ed è una questione quasi fisica, cioè di corpi che si muovono. E a quel punto è molto difficile giocare queste partite, dicevo. Chiedete all'Olanda, se volete. Olanda che già nel debutto azzurro mi aveva fatto pochissima impressione, adesso ha perso in Islanda 2-0. Quanto a Capello, e poi ne parliamo, Capello che dicono non becca lo stipendio altissimo da 4 mesi, ma 4 risparmi li avrà comunque, non vi preoccupate. Ebbene, è stato convocato dal ministro dello sport russo Vitali Mutko dopo il deludente 1-1 con la Moldova, incontro valido per la qualificazione all'Euro 2016, a riferirlo sono i media russi. Sono sicuro che i ragazzi supereranno le qualificazioni e giocheranno gli europei, ma non mi sono piaciuti né il risultato né il gioco, ha osservato con un certo disappunto Mutko, che ha annunciato di voler incontrare il tecnico della nazionale russa la prossima settimana al suo ritorno a Mosca. Anche i tifosi non sono contenti, aggiunto il ministro. Ho perso la gara di Formula 1 a Sochi per assistere a quella partita lì. In tribuna c'erano 55.000 persone che incitavano il nostro pilota russo Daniil Kvyat, e vorrei che questo tipo di amore anche per il calcio. Morale, Capello, stai attento, già da 4 mesi non becchi i soldi e questi vogliono i risultati. Ma c'è anche la Germania che nel weekend ha preso 2 fischi dalla Polonia. Insomma, tutte partite in questo momento dell'anno in particolare storicamente non semplici, perché è chiaro che anche le teste dei giocatori sono in altre faccende affaccendate, ci sono le polemiche, c'è Totti, c'è Rocchi, c'è Juve-Roma e da altre parti c'è la Champions League. Insomma, ci sono un sacco di pensieri. Resta il fatto che l'Italia di ieri sera, a parte il Salentino Pellè che l'ha messa al debutto come era ampiamente scritto, a parte il Salentino Conte che dice vabbè adesso, però 4 partite, 4 vittorie, criticate finché volete e criticherete all'800240024, però i risultati sono questi. I risultati non sono tanto nella vita, non sono tutto. L'Italia di ieri sera è stata impresentabile. Il migliore, altro argomento che può essere discussione, è stato il panchinaro fisso della Juventus di Conte, e cioè Sebastian Giovinco, che tutti, che era stato il migliore già con l'Azerbaigian e che tutti volevamo rivedere in campo. Ebbene, tutto questo abbiamo visto, nulla di questo abbiamo visto a Malta, perché di calcio davvero poco. 800240024, Pardo, come sapete, non c'è in viaggio di nozze, quindi non continuate a dirlo nella sigla. Programma di Carlo Gente, Pierluigi Pardo, sì, c'è perché è una regia occulta, ma in questi giorni è in viaggio di nozze con Cassano, quindi non disturbare, prego, tra poco torna. Tante volte, ecco, non riusciamo a capire dove ci troviamo proprio in generale, proprio a livello calcistico. Non ci troviamo in una situazione sicuramente favorevole, quindi dobbiamo essere tutti quanti uniti e cercare di far crescere quest'Italia che, ribadisco, ha fatto 4 partite e 4 vittorie, siamo primi al girone. Cross di prima intenzione, il colpo di testa di Pellè che colpisce la traversa. Allarga sulla destra dove arriva proprio Candreva, la deviazione ancora sulla traversa, la battuta di Pasquali in mezzo dalla parte opposta, arriva Chiellini e il pallone colpisce il palo e finisce fuori. Allo scatto di Giovinco, può andare Giovinco, ancora Giovinco solo davanti a Hobo, Giovinco, il palo, l'ennesimo colpito comunque dall'Italia. Prova il sinistro, del palo incredibile! Beh, per l'immortale Nico Rocca Rosio sarebbero stati 4 quasi gol. Magari all'oratorio si poteva trasformare la regola 4 pali un gol, la famosa regola 3 angoli un rigore. Di angoli ne abbiamo battuti 8, potevano starci 2 rigori e 3 quarti per l'Italia. Ma queste non sono le regole del pallone. Enrico Currò, buongiorno, ciao Enrico. Ciao Carlo. Come stai? Bene, bene. Senti, nella notte, ma ora... Tornato nella notte da Malta dopo aver scritto per Repubblica, e a me, dicevo prima, mi viene voglia quasi di difendere l'indifendibile. Cioè l'Italia avvolta dall'Azerbaigian, incagliata su Malta, giocare queste partite, ma anche le altre squadre europee lo dimostrano, giocare con queste partite mi dà sempre l'idea del nuoto in una vasca piena di Nutella, di marmellata, di miele, di qualcosa di gommoso comunque. È molto difficile, dai. Sì, è difficile, lo dimostrano appunto, come ricordavi tu, i risultati dell'Olanda, per esempio, che è in una situazione quasi paradossale, 3 partite, 2 sconfitte. Però, detto questo, l'Italia ha giocato contro Malta in 48 minuti in superiorità numerica, sì, e ha vinto 1-0. I pari quasi gol contano, ma resta il fatto che l'Italia ha battuto 1-0 Malta e 2-1 l'Azerbaigian. Non mi sembra esattamente qualcosa di cui No, ma quasi per paradosso l'Italia ha giocato peggio quando è rimasta ingiustamente in inferiorità numerica a Malta, proprio a conferma di questo fatto che Malta è scarsissima, cioè non è una squadra di pallone proponibile, come non sono squadre di pallone proponibili il Lussemburgo, la stessa Islanda, eccetera eccetera. Però se tu metti 10 corpi dietro la linea della palla, gli dici esattamente dove stare e di correre come dannati, cioè diventa difficile anche quello, no? Diventa difficile anche provare a giocare a pallone. Verissimo Carlo, però io sono andato a riguardarmi per rinfrescarmi la memoria, quello che avevano fatto altre nazionali del passato a Malta. Se noi pensiamo che Malta abbia più o meno mantenuto, ed è così, lo stesso livello, non assolutamente alto, mi pare che quest'Italia, di tutte le Italie che hanno giocato a Malta, sia stata forse la peggiore. Quella che ha sofferto di più, perché non è vero, aveva sofferto di più paradossalmente quella di Prandelli, che ha rischiato di essere raggiunta su rigore da Buffon prima di segnare il 2-0 con Balotelli. Aveva sofferto anche quella di Sacchi in qualche modo, però mi ha dato una sensazione di scarsa concentrazione, di ritmo basso, di svogliatezza, come se veramente il fatto di sapere che tanto ci si qualifica anche arrivando secondi o arrivando addirittura terzi in questa nuova incredibile formula dell'Europeo 2016 possa avere condizionato più o meno consciamente i calciatori a prendere letteralmente sotto gamba l'impegno. E se questo vale per i giocatori, che ne so, della Juventus, secondo me non può valere per chi si giocava qualcosa ieri, si giocava il posto sostanzialmente. Sì, e tu hai annunciato però quelli che sono per Conte peccati mortali, cioè sono quell'atteggiamento con Conte come la bestemmia in chiesa, Sì, lui dice che non è così. Però io so che nell'intervallo si è arrabbiato parecchio, quindi evidentemente aveva notato le stesse cose che abbiamo notato noi. Senti, ma segna Pelé, ovviamente, il debuttante che la mette. Vedremo se è una convocazione alla carriera o un'idea per il futuro Pelé. Mentre in Inghilterra ce n'è un altro molto più famoso che, al di là delle parole, resta e a mio parere resterà a lungo dov'è. Sì, questo è possibile, però sai, io credo che Conte si sia perfettamente reso conto del vero limite di questa nazionale, che poi era anche il limite in parte della nazionale di Prandelli e di quella di Lippi del 2010, cioè la graduale assenza di talenti che possano fare la differenza. Sì. E pensiamo che ieri quello che ha fatto la differenza, e anche con l'Azerbaigian, è stato Giovinco, cioè un giocatore indubbiamente bravo, ma che nella Juventus è una riserva conclamata. Sì. Possiamo avere la misura di come non si debba dire mai all'eventuale convocazione di Balotelli. Quella di Balotelli è una convocazione che evidentemente non viene fatta al di là delle valutazioni tecniche che si possono fare, soprattutto per come si comporta e per il rischio che si comporti in un certo modo, perché dal punto di vista tecnico, oggettivamente, con tutti i limiti di Balotelli, credo che lui in questa nazionale ci possa stare come. No, questo lo penso anch'io, anche perché è evidente, ma sono rilievi che si facevano prima con Prandelli e prima di lui con Lippi. D'altra parte non mi sembra, Enrico, che questa nazionale sia poi così diversa da quella di Prandelli, anche negli interpreti. Ti aspettavi un Conte più rivoluzionario? No, non mi aspettavo un Conte più rivoluzionario. Io penso che lui si è imposto un pochino sulla squadra con un atteggiamento non dissimile da quello che aveva Lippi, cioè un atteggiamento, e soprattutto da un atteggiamento non dissimile da quello che aveva Sacchi. Cioè io credo che lui abbia il paragone più calzante, forse quello con Sacchi. Sacchi era un allenatore che pure un CT, che pur avendo degli interpreti all'epoca di livello medio tecnico certamente superiore a quelli attuali, voleva che si inserissero, si adattassero al suo modulo, la stessa cosa al suo sistema di gioco, la stessa cosa che sta facendo Conte. Dice: il modulo è questo, il 3-5-2, i calciatori si devono adattare a questo perché non ci sono dei fuoriclasse. Forse ha ragione, però è anche vero che così facendo in qualche modo si preclude la possibilità di utilizzare dei calciatori nei loro ruoli naturali. Per esempio Candreva non è che sia un fuoriclasse, è un buon giocatore, ma certamente ieri pareva abbastanza un pesce fuor d'acqua, abbastanza fuori ruolo. Quindi non credo che questa filosofia, che poi è anche qualcosa di berzottiano, perché se guardiamo il gioco che vuole Conte, è un gioco tendente al contropiede, alla verticalizzazione, non è un gioco molto orizzontale. Lui ha sottolineato più volte la differenza, senza nominare Prandelli, tra però è chiaro che nominava Prandelli con il gioco del suo predecessore, un gioco orizzontale quello di Prandelli, un gioco verticale quello di Conte. Il problema è che quando tu affronti squadre che non ti permettono di giocare in verticale perché si chiudono troppo, incontri delle grandissime difficoltà. Certo. E ora lui avrà 2 anni, Carlo, in cui potrà praticamente fare quello che vuole. Uh-huh. Tanto il vero esame per Conte, il vero giudizio di Conte sarà l'europeo. E siccome all'europeo Prandelli è arrivato secondo, uh-huh, è chiaro che sarà un paragone scomodo che in questi 2 anni non si porrà. Uh-huh. Arriverà tra 2 anni. Certamente. Tu ti rendi conto però, Enrico Gorò, che hai enunciato il sacro testo della distinzione tra allenatore e CT, no? Il parallelo con Sacchi, l'importante è il modulo, non sono gli interpreti. Poi non è poi così vero, perché è chiaro che gli interpreti fanno tutta la differenza del mondo. Insomma, probabilmente Conte si sta studiando, si sta rendendo conto della differenza tra il commissario tecnico e l'allenatore. Sicuro, ma lui ha detto di voler fare l'allenatore, non lo farà mai, di avere questa ambizione, e quindi, ma d'altra parte anche Prandelli faceva l'allenatore, non è che le cose fossero diverse, era una questione di filosofie diverse. Tu hai detto una cosa giustissima sottolineando l'assenza, i giocatori sono quelli che sono, e ripeto, il fatto che si vada a pescare Giovinco, che secondo me è un ottimo giocatore, però non gioca nella Juventus, significa che poi di fatto del talento anche Conte ha bisogno e se ne rende perfettamente conto. Chiaro. Quindi chiaro. Lo dovrà cercare ancora, ne dovrà cercare altri. E forse questo Verratti, che gioca in nazionale, ieri è infatti come se fosse stata una bocciatura del Verratti regista, uh-huh, che è l'unico ruolo in cui lo vede Conte. Ma forse a poco Conte lo sposterà, lo metterà in un'altra posizione, perché è evidente che Verratti al mondiale è stato il migliore della nazionale, non è che stiamo parlando di un campione. No, certo. No, vabbè, però Enrico ha qualche attenuante, è cresciuto molto alla svelta, il Paris Saint-Germain gioca stabilmente ad altissimo livello. È chiaro che non si può dire, va bene, questo è l'erede di Pirlo e sa fare esattamente tutto quello che sa fare Pirlo, perché ha sempre quel tocco in più che ti rallenta il gioco. Insomma, sta studiando anche lui da Pirlo, da playmaker, da giocatore di quel tipo. Non lo è ancora. Però, a proposito di talento, è uno dei pochi che nei piedi ne ha tanto. Enrico, grazie, ti abbraccio. Grazie a te. Grazie, ciao. Enrico Currò, inviato di Repubblica. 800 24 00 24. Beppe scrive: ieri sera Malta Italia c'erano più zombie che nella prima puntata di The Walking Dead. Mai pensato magari in questi giorni o durante la partita che fosse più facile allenare la Juventus rispetto alla nazionale? Beh, lo dice adesso, anche lì si è ripartiti da 2 settimi posti, ecco, quindi abbiamo vinto il primo scudetto in maniera incredibile. Ripeto, i palazzi non si costruiscono in 2 giorni, quindi sappiamo che qui c'è da fare un grandissimo lavoro. Non era facile, loro si sono accorti anche ieri e l'altro ieri da partite non facili per nessuno, anche le altre nazioni hanno rischiato con le squadre meno forti, ma è inizio stagione, sappiamo che in una nuova gestione stiamo lavorando anche duro per cercare di giocare meglio. Speriamo, ripeto, siamo contenti per i 3 punti, però dobbiamo fare meglio. Che noi amati Italia, non vedo l'ora di rituffarmi nella nostra palude con Sassuolo, Juventus, Roma, Chievo e chissà che arbitra, domani lo scopriamo, eccetera. Intanto 800 24 00 24, ho convocato tutti i salentini, neanche un salentino, uno dalla provincia di Torino, uno da Bergamo e uno da Padova. E allora ho sempre difeso Balotelli, ma la sua indolenza mi ha stufato, fa bene Conte non convocarlo. Balo è il contrario naturale di Ringhio Gattuso, scrive Andrea. Sì, in compenso deve avere un eccellente avvocato, leggo adesso sui siti, ci sono delle foto di lui con la sua bimba sulle spalle, che dovrà sganciare 1000 sterline a settimana per il mantenimento della bimba, 1300 euro a settimana, fa 5.200 al mese se non ho sbagliato i conti. Ha un eccellente avvocato, lui che becca 6 milioni di zucche l'anno. Vincenzo, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. E niente, Salentino, come ha detto lei, provincia di Torino, però... Ah, Salentino. E allora, un applauso per Vincenzo, grazie. Applauso. Non ci abbiamo un applauso, lo faccio io. Addirittura. Lo faccio. Ho chiamato i Salentini, vedo, provincia di Torino, Bergamo, Padova, meno male che l'origine ma è quella. Noi Salentini siamo in tutto il mondo, purtroppo. Sì. Sono andato. Dica? Pronto? Sì, stavo dicendo, sì, purtroppo noi siamo un po' in giro sparpagliati, certo, per tutta l'Italia, per l'Europa, per il mondo, quindi troverà sicuramente in ogni parte del mondo un Salentino. Quindi? Cosa diciamo dei Salentini Conte e Pellè? Conte, sappiamo cosa è stato come calciatore, come allenatore della Juventus. Adesso vediamo come allenatore della nazionale. Sicuramente questo del CT della nazionale sarà un ruolo molto molto più complicato di quanto potesse essere quello di giocatore della Juventus. Juventus che ha una grande tradizione naturalmente, no, di giocatori salentini, Causio, Brio, adesso Conte, quindi. E come allenatore per lei anche lui appunto un salentino che ha trovato fortuna all'estero. Sì, ha trovato fortuna all'estero, in una lunga carriera, sì, in una lunga carriera estera che l'ha portato per lunghi anni in Olanda a segnare, sì, un valanghe di gol, adesso su un palcoscenico, sì, più importante, quello inglese, che insomma, gli ha portato questa convocazione nazionale. Io ancora continuo ancora non so, lo scopriremo vivendo nelle prossime puntate, se è stata una convocazione alla carriera, una convocazione per accontentare gran parte dell'opinione pubblica, perché sappiamo bene come molti in Italia sottolineassero questo aspetto strano per cui abbiamo un giocatore all'estero che segna un disastro di gol, in nazionale non viene mai convocato, oppure se possa essere davvero un giocatore funzionale a qualcosa, a un ruolo più definito in questa nazionale, in cerca di gol e di talento. Questo credo lo scopriremo nel giro di un po'. Simone Bergamo, grazie Vincenzo, buongiorno Simone. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Allora, una chiave di lettura sul difendere l'indifendibile. Sì. Io l'ho vissuta un po' al contrario, la apprezzo tantissimo, ma l'ho poi vissuta anche un po' al contrario. Cioè, secondo, sì, me ieri due risultati, quello dell'Olanda e quello della Croazia, sì, più che dirmi che le altre fanno far fatica a questi due squadroni, mi dicono che l'Italia è veramente in questo momento una cosa indifendibile. Ma secondo me è anche sbagliato fare un parallelo. Allora, l'Olanda l'abbiamo battuta in quella maniera, l'Olanda perde 2-0 in Islanda, e fare questo tipo di sillogismo secondo me è abbastanza fuorviante, Simone. Dici? Ma secondo me un po' sì, secondo me un po' sì. L'Azerbaigian con la Croazia, ma che adesso è molto, vediamo, più vicino. Vabbè, allora questo vuol dire che facendo due conti la Croazia ci batte 8-3, no? Più o meno. No, però secondo me questi viene andati 6 senza faticare. Noi abbiamo fatto la fatica. O sbaglio, no? Dico male. No, dice benissimo. No, quello che voglio sottolineare io è che, vabbè, anche la Germania che ha perso con la Polonia, possiamo metterci anche questo. Polonia altro livello rispetto a Malta, Azerbaigian naturalmente, inutile star lì a discuterne. Però in questo particolare momento è quasi normale trovare in queste sfide così impari, sono anche difficili da leggere secondo me. Cioè, quando hai un avversario che ti trascina così verso il basso dal punto di vista del gioco, sono quasi partite, quasi giochi senza frontiere o giù di lì, non sono tanto partite di calcio. L'altra sera ho intravisto la Spagna giocare con Liechtenstein, anzi tra poco ne parliamo pure. 4-0, ok, risultato rotondo, ma Liechtenstein e la Spagna non mi ha fatto una grandissima impressione, cioè sono difficilmente giudicabili. Quello che voglio dire è che queste partite con avversari così deboli sono davvero molto difficili da giudicare, e non sto difendendo nessuno, ne sto facendo un opinabile discorso tecnico, soltanto questo. Poi può essere che Lussemburgo naturalmente, non Liechtenstein, ma è la stessa cosa. Quindi ne sto facendo semplicemente un discorso tecnico, magari sbagliato, magari opinabile, infatti ne stiamo parlando insieme. 800 24 0024, grazie Simone. Vincenzo Padova, buongiorno. Buongiorno, io sono vivo a Padova, ma sono un salentino. E due, bravissimo. Ecco, tutti, io voglio sentire tutti i salentini. Lecce. Anche Filippo Maria Ricci è un salentino, non è vero, ma fa ecco. Niente. Dica. No, Galatina, provincia di Lecce. Ecco, no, io volevo dire solo una cosa. Intanto, secondo me, questo è un gioco e quindi dobbiamo anche un po' drammatizzare tante cose. È uno sport, dovremmo viverlo un po' più serenamente, tutto lo sport in generale, no? Sono d'accordo. Detto questo, è chiaro in questo momento la stagione, i calciatori hanno mille impegni, può anche succedere che sottovalutano una partita, no? Che poi se squadre che incontri sono nettamente inferiori, lo mettono sul piano fisico, e hanno mille motivazioni, magari certo. Le nostre non ce l'hanno. E poi c'è da dire anche, vabbè, noi i giocatori che abbiamo sono questi, non è che abbiamo grandi fuori classe, e quindi sì. È chiaro che le vinci con un po' di fatica, un po' con la tattica, con la tecnica, che ne so, però io tornerei sì. Un po'... Oppure con quelli che hanno qualche colpo, esatto. che però non vanno bene, perché adesso sono così al momento allontanati e pagano 1.000 sterline a settimana per il mantenimento della figlia. Gran bello avvocato a Balotelli. Complimenti all'avvocato di Balotelli. Filippo Maria Ricci dal Salento. Eccoci qua. In pieno Salento. Sono con il mio trullo qua, sì. Naturalmente, come sapete, Filippo Maria Ricci. Da Madrid, per noi è la Gazzetta dello Sport. Di Salentino credo non abbia neanche un parente. No, di parenti niente, però grande passione per il Salento. E poi sai che all'Atletico Madrid c'è una grandissima salentina, una ragazza che lavora all'Atletico Madrid, molto brava. Davvero? Lei sì che è salentina, sì. Maria Teresa, Chirivì. Quindi convocheremo anche lei. I salentini sono ovunque, per cui vabbè, insomma. Certo, compresa la nazionale italiana, uno allena, l'altro segna. Ieri è andata bene così, quindi festa del Salento. No, stavo facendo questo discorso. Aiutami o contraddicimi quello che vuoi. Spagna, Lussemburgo 0-4. Vabbè, gli spagnoli ne hanno segnati 4. Ma ho visto un po' di partita, non mi è sembrata una cosa travolgente. No. Islanda 2, Olanda 0. Bello questo. La Polonia che batte la Germania, campione del mondo, con il miglior portiere del mondo, Neuer, che fa una paperaccia. Voglio dire, sono cose talmente strane queste partite. Vuoi per il momento in cui cadono, vuoi per la fragilità totale degli avversari, che sono difficilmente giudicabili. Sì, io ci aggiungerei la Slovacchia che ha battuto la Spagna, la Moldavia che ha pareggiato con la Russia mettendone guai capello. No, sono partite. Allora, poi parliamo anche di capello con calma. Poi parliamo con calma. Don Fabio merita una finestra a parte. No, io dico questo. Pensavo proprio l'altro giorno, facevo la considerazione, dico: che schifo, queste qualificazioni sono orrende. Perché comunque no, ormai l'europeo ci vanno 1.000 squadre, quindi no, hanno tolto completamente il sale. E in parte sono stato smentito, però in parte invece ti confermo questo pensiero. Perché se fosse un europeo serio con diciamo 16 squadre e non 40.000, sì. Una sconfitta potrebbe condizionare. E il problema vero è che queste grandi squadre perdono o pareggiano, ma tanto gli europei ci andranno comunque, a meno che proprio non continuino a fare dei disastri. Però è un vero peccato, perché invece le piccole si stanno impegnando, insomma, cioè, l'altro giorno anche il Lussemburgo quasi vince, insomma, ha perso all'ultimo minuto. E non lo so, è un vero peccato che questa nuova formula così allargata toglie un po' di vita a questo europeo. Sì, ne toglie moltissima, ne toglie un po' anche a noi che guardiamo queste partite, che sono francamente una punizione in ginocchio sui ceci. Sì, perché appunto sai, questi hanno perso, ma che succede? Cioè, la Spagna ha perso con la Slovacchia, che fa? Non va all'europeo? No, ma è chiaro. Se 16 squadre, allora dici, va bene, allora me la guardo volentieri. No, ma è chiaro, per guardare queste partite o ti devono pagare come fanno con noi, oppure devi avere delle perversioni, dei problemi seri, secondo me. Allora, Filippo, stavamo dicendo? Stavo dicendo che la nostra collega del traffico ha citato 3 volte la Complanare. Cioè, scusa, era Tana di Teramo, quindi andiamo avanti. No, poi lei è venuto in mente Frengo, e quindi la Puglia, e quindi il Salento, e possiamo proseguire. No, io continuavo a riflettere sull'eccellente avvocato che ha Balotelli. Quant'è? 1.000 pound a settimana? 1.000 alla settimana, ma cosa è che sia? 1.300 euro a settimana? E lui ne prende quanto? 6 milioni all'anno? Quindi alla fine fa 5.200 al mese, 5.200 al mese su 6 milioni, 6 milioni che prenderanno a chapeau all'avvocato di Balotelli. Sì. Ma anche il manager è molto bravo. Beh, bravino, lo vorrei anch'io, guarda. Quanto si è parlato dalle tue parti di Totti Rocchi? Rocchi Totti? Abbastanza. Ridendo come pazzi, no? Come scimmie. Sì, voglio dire, insomma, abbastanza. No, qua si è parlato tanto di Totti. Totti è, diciamo, adesso in quest'ultimo periodo sta insinuando Pirlo, che è il favorito degli spagnoli ormai all time quasi. Comunque l'ultimo decennio, però Totti con le sue brillanti prestazioni adesso lo sta insidiando. Sì, se ne è parlato, però in maniera relativa, come sempre, insomma. Non è, insomma, alla fine va bene, insomma, le polemiche interessano fino a un certo punto. Comunque ne hanno già di loro qua, quindi sì. Quelle, diciamo, tipo quali sono le più gettonate adesso, giusto per la cronaca, per ricordare? Beh, Casillas. Vabbè, sono tutte Casillas. Polemiche arbitrali, no, polemiche arbitrali ultimamente non ci sono state, anche perché non c'è stato grandi episodi. Adesso aspettiamo il classico e poi ne riparliamo, magari tra due settimane col classico magari qualcosa in più può succedere. No, si lamentano del fatto che le altre squadre dicono che l'Atletico mena. Per me non è tanto così, per me un po' sì. Boh, sì, però nemmeno entro limiti accettabili, sì, ma non è che, sì. Non è, insomma, per me non è esagerato, però diciamo, ecco, questo può essere uno dei temi, però boh. Senti, alla fine ne... invece prima di salutarti, allora, Fabio Capello, capitolo a parte, il ministro Vitali Mutko, dopo l'1-1 con la Moldova, ha detto: vieni da me che dobbiamo fare due chiacchiere. Ha schiacciato il bottone rosso del telefono, quello di Brescia. Vieni da me che... quello grande ha schiacciato la linea diretta con Don Vitali Mutko. Beh, già dopo il mondiale forse il bottone rosso andava schiacciato, perché anche i tifosi non sono contenti. No, io Vitali Mutko ho perso la gara di Formula 1 a Sochi per assistere a quel match lì. A Sochi in tribuna c'erano 55.000 persone che incitavano il nostro pilota Kvyat. Vorrei questo tipo di amore anche per il calcio. Don Fabio è ora sotto esame per le qualificazioni. Da 4 mesi non becca lo stipendio. Secondo la stampa locale, 8,3 milioni di euro l'anno, 691.000 euro al mese per 4 anni, per la precisione, e con tanti saluti all'avvocato di Balotelli. Allora? Esatto. Allora, io dico, ho assistito al crollo finale della Russia a Curitiba in Brasile, quando non riuscì a far fuori l'Algeria, e quindi mestamente terminò, rapidamente terminò il suo mondiale. Capello si lamentò degli arbitri facendomi passare una notte infame, perché nessuno aveva visto nulla di cui lamentarsi, per cui io continuavo a dire: ma di che cosa stiamo parlando? Sì. Esatto, e nessuno mi ha saputo mai dare una risposta, quindi insomma, e quindi già lì lui si lamenta, perché un po' prima in Inghilterra giustamente diceva che i giocatori inglesi sono pochi, e quello c'ha ragione, perché pensa che solo in Champions League ci sono 17 inglesi. Sì. Contro gli 80 spagnoli, quindi già... Vabbè, lì poi hai ragione. E qua dice: ah, il campionato non è tanto competitivo, i miei l'esperienza. Anche l'Algeria, che non è proprio esattamente un campionato performante, è chiaro che molti giocano in Europa, giocano in Francia, quello che vuoi, però in generale mi sembra che il campionato islandese è un'altra cosa. Sì, esatto, sì, si cercassero un pochino adesso, perché comunque la Russia ha un campionato discreto, e cioè, le squadre fanno le coppe europee e via dicendo. Quello della Moldova poi te lo raccomando, la Moldova, esatto, così. È chiaro che se lo metti insieme, come tu hai cominciato, no, citando la Germania, così noi fatichiamo, la Spagna perde di qua, l'Olanda perde in Islanda, va bene, ci può pure stare, però sì. E poi magari ha anche ragione Capello, che magari il materiale umano non è di primo ordine, questo sicuramente. Però è chiaro che poi pesa, qua quello che pesa è quello stipendio enorme, per cui se non vinci tutte le partite, qualcuno ti chiama Vitali Mutko. Esatto. esatto, c'è il bottone rosso, capito, di Brezhnev, lo schiaccia, chiama e convoca. È normale, vuol dire, se guadagnasse un terzo dice vabbè, però scusami, non sarebbe l'allenatore, non sarebbe il commissario tecnico della Russia, perché per definizione tu ti vedi uno che va a allenare la Russia per quattro soldi, vabbè, per 1000 sterline a settimana. Comunque in generale, eh? No, ma no, non sto dicendo quello, sto dicendo che lì ti strapagano, però sì, se non raggiungi i risultati, esatto, arriva Vitali Mutko. Ciao Filippo. Ciao. Tutti convocati. Si ricomincia. Sì, 800 24 0024 è il vostro numero verde. C'è un ascoltatore, Marco da Hellas Verona, vabbè, Marco da Verona, tifoso dell'Hellas naturalmente, che ricorda che oggi è il 30° anniversario del mitico gol senza scarpa, dell'immenso, unico e tutti gli aggettivi che volete, grande Preben Elkjær Larsen alla Juventus, e sottolinea che nell'Islanda gioca anche un certo Alfredsson, ottimo giocatore del Verona. Allora, Corrado da Pordenone, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche a voi della redazione. Grazie. Posizione bellissima. Grazie. Niente, io sono un salentino, quindi da Tatina anch'io, come il presidente ascoltatore. Nulla, io volevo soltanto sottolineare che purtroppo il materiale che noi abbiamo a disposizione, visto i grandi acquisti degli stranieri che si fanno, è questo. Non abbiamo altro materiale. Quindi, secondo me, Conte è l'unico uomo, al momento, che io posso, per quanto ne possa capire di calcio, visto che ne sono anche un po' ammalato, sì, che può tirar fuori il massimo da questi ragazzi. Sì, però mi perdoni Corrado, se il massimo è 1-0 con Malta, certo, o 2-1 con l'Azerbaigian, allora è davvero, un autodeprimersi ingiustificato. Certo, sono d'accordissimo con lei, tant'è vero che io ieri sera ero veramente deluso, nervoso. Ma sai, io no, ma per il motivo che le dicevo prima, cioè, a parte il fatto che storicamente provi a ricordarmi una partita brillante dell'Italia, che sia qualificazione mondiale, europeo, amichevoli, che in questo posso periodo ricordare io, certo. E penso che lei mi troverà molto d'accordo. Io, l'unica nazionale che al momento, di tutti i trascorsi di allenatori vari e non vari, l'unica nazionale che io oggi ricordi ancora come calcio spettacolo è la nazionale di Vicini. Sì, ho capito, però non in questo momento dell'anno, Corrado, è quello che sto dicendo, cioè contro questi avversari, che non valgono niente calcisticamente parlando, è un periodo dell'anno molto delicato, ci sono campionato che è già entrato nel vivo, ci sono le coppe, c'è la paura di farsi male, onestamente c'è anche una chiara assenza di motivazioni, quindi... quello che dico io, e non è una difesa forzata d'ufficio, è che è molto difficile fare del calcio champagne. Prima un ascoltatore, che sono al solito piuttosto permalosi molti, dicono allora la Spagna 4-0 a Lussemburgo non ha giocato bene. No, la Spagna non ha giocato bene, nonostante il 4-0 a Lussemburgo ha avuto il merito di segnare 4 gol, ma certamente non ha giocato una partita travolgente, quindi inutile ricordare l'Islanda, l'Olanda, Islanda-Olanda, la Cappello che pareggia, la Polonia che batte la Germania, eccetera eccetera eccetera, insomma le grandi d'Europa non hanno brillato, nessuna di queste ha brillato, non so se l'Italia sia una grande d'Europa. È chiaro che il bacino d'utenza che ha a disposizione Conte è questo, ma non mi sembra neanche, ripeto, così scarso, così deprimente. Quindi piuttosto mi sarei aspettato un maggiore coraggio da parte di Conte, o nelle scelte o anche nell'impostare queste partite. Tanto insomma valgono 3 punti, è vero, ma soltanto sulla carta, perché poi per tutti i motivi che conosciamo questo girone di qualificazione agli europei è una serie infinita di amichevoli, di preparazione. Pietro da Lecce, Gianluca da Lecce, salentini all'assalto, 800 24 0024. Buongiorno Pietro. Buongiorno, ciao, grazie per avermi richiamato. Per quanto riguarda il discorso sulla nazionale, su Conte, sono d'accordo sostanzialmente con te, cioè queste sono partite dove importante vincere, poi Conte secondo me farà bene perché è un buon allenatore, però ti avviso che quando sentirai parlare bene di Conte e parli con un salentino, la persona con cui sto parlando non è un tifoso del Lecce, sarà un tifoso, come li chiamiamo noi più a Lecce, si tratta di rinnegati, tipo Juve, Milan, sai quelli che durante Lecce Juve vanno in curva nord con la nascosti e stanno zitti? Cioè, sarà uno di quelli. Poi quando la Juve segna vedi fiorire le sciarpe? Sì, vedi soffrire, stare in silenzio, io mi sono trovato che è passato in situazioni paradossali. Quindi vale di più l'essere juventino dentro gobbo inside come Conte che l'essere salentino, l'essere gobbo inside supera l'essere salentino, è questo che mi stai dicendo? Non devi sapere, ma lo sai sicuramente, circa 15 anni fa durante un Juve-Lecce Conte segnò il 2-0 al 93esimo, fece il giro di campo, da allora ovviamente lui non può più, diciamo, definirsi salentino, però è un bravo allenatore, credo farà bene. E per quanto riguarda Pellè, è un Lucarelli meno tecnico, è uno che comunque come Lucarelli la butta dentro. Ci vediamo un attimo, sentite qua. Come giocatori sono anche bravi, come parrucchieri non capiscono un cazzo, guardate qualche roba. Oggi dire che la sentivo mi riesce facile perché l'avevo già detto, e quindi non faccio l'ipocrita nel dire che o nemmeno esagero dicendo che è una delle giornate più belle della mia vita. Forse ci sarà qualcuno fuori dalla nostra Varese che penserà che tutto ciò è un po' esagerato. Non capiscono un cazzo, non vi preoccupate. Allora, da due giorni è il pueblo di tutti i convocati, lo invoca a gran voce, eccolo qui, è arrivato Gianmarco Pozzecco che ieri si è preso un giorno di baldoria, credo. Ciao Poz. Ciao. Sei andato a pescare, giusto? Come, scusami? Sei andato a pescare? Sì, in un lago artificiale con i pesci finti. Vabbè no, credo, diciamo che sono finito come i vecchi tempi all'Hollywood, ti dico solo questo. Grande Poz, con il mitico Angelone Reale. Come fai a sapere queste cose? No, ha tirato il pacco invece Angelone Reale. Che Angelone Reale è bellissimo, andare in discoteca con lui è la cosa più efficace che ti possa capitare, perché non lo perdi mai. L'unica cosa che devi non sederti, perché sai, discoteca poi dopo un po' inizi a cercarti dove è quello, dove è quell'altro, e Angelo Reale. Dici sempre ai tuoi amici, facciamo così, se ci perdiamo ci troviamo sotto Angelo Reale. Sì, all'ombra di Angelo Reale. Esatto. Prima parlavamo di Capello e di Russia, così en passant, poi ti chiedo il derby naturalmente. Parlavamo di Capello di Russia, convocato dal ministro dello sport, perché non sta andando benissimo, ripeto il nome, Vitali Mutko. Ministro dello sport russo, vieni qui perché ti diamo un sacco di soldi e non stai andando molto bene. Tu da quelle parti ci hai giocato al Khimki, lì ti coprono d'oro, però se non vanno bene le cose ti chiedono il conto, o sbaglio? Sì, penso che succeda un po' ovunque così, non è che nessuno ti regala mai niente, però sì, è vero, in effetti lì, anche perché secondo me sono poco competenti e quindi magari apprezzano, non fanno più fatica a apprezzare il lavoro di un grande come Capello, sì. E chiaramente dipendono invece sostanzialmente dai risultati, perché è l'unica cosa che riescono a giudicare facilmente, e quindi sì, dipende dal risultato, soprattutto perché c'è un po' meno competenza. Certo. Quindi... Senti, Poz, invece io non ho mai fatto così fatica a guardare una partita di basket dal divano come il derby di domenica, ma per colpa tua, perché sudavo guardando quello che facevi. Ti avrei fatto compagnia volentieri per come ero messo. No, in giacca e cravatta hai corso molto di più rispetto a quando giocavi. Comunque... soprattutto quando stavamo in difesa. Esattamente. Però oggi, insomma, penso ti abbia fatto piacere leggere il commento del Chiabo, di Luca Chiabotti, sulla Gazzetta dello Sport. Dietro allo showman c'è un coach vero che dice: sì, ok, lasciate stare queste cose, però andate a vedere come ha vinto la partita. In quattro punti ha analizzato una partita da bravissimo allenatore. Ma lo ringrazio enormemente per sì, l'ho detto anch'io chiaramente il suo pezzo. Diciamo che non è proprio così, nel senso che le partite le vincono i giocatori. È stato bravo Balanzoni, che appunto, diciamo, quello che Luca ha individuato come il colpo, no? Come se fosse stata la mossa azzardata che ha un po' cambiato la partita. È vero, nel senso che Balanzoni ha un po' girato la partita, però non è vero che ho avuto un grande merito nel metterlo dentro, cioè, metterlo dentro poi alla fine, insomma metterlo dentro, scusate, non è l'ora di parlare di certe cose, però è la cosa più semplice, poi non semplicissima, dipende da chi, vabbè, scusatemi, però è la cosa abbastanza semplice. La cosa più complicata è poi una volta in cui il giocatore scende in campo, diciamo così, giocare a pallacanestro, ecco, diciamo che la parte più complessa è quella, sì. Poi non so se sono bravo o meno come allenatore, mi anche interessa poco scoprirlo. L'unica cosa che invece conta per me è che il rapporto che ho con i giocatori, per esempio sono strafelice che oggi Balanzoni abbia un po' di vissuto dopo due anni di panchina, abbia quella soddisfazione che i giocatori insomma ricercano, ed è vitale poi per loro, per anche come stimolo per migliorarsi. Senti Pot, ma ti ha fatto godere di più vedere il modo in cui difendevano i tuoi o il modo in cui si passavano la palla in attacco? No, è vero, l'ho rivista oggi, ho rivisto la partita stamattina, sì, cioè, guarda, credimi, ho pensato e ho riflettuto su quanto si passino la palla in attacco e sulla disponibilità che hanno avuto in difesa. Sono due cose secondo me che fanno la differenza, chiaramente una c'è, cioè, lo spirito di sacrificio per quanto riguarda la parte difensiva, e la parte offensiva secondo me non puoi prescindere dal volerti passare la palla. Io lo dico sempre, la prima qualità di un grande passatore è questa, cioè il voler passare la palla, cioè avere il piacere nel mettere un proprio compagno nella condizione di far canestro. Sì. Diciamo che insomma l'hanno avuto abbastanza spiccatamente questa si è visto, si è notato che hanno giocato volentieri insieme, hanno giuito insieme, insomma diciamo che a queste due cose ci aggiungo proprio che a 360 gradi secondo me la partita di domenica c'è stato un coinvolgimento e una condivisione di tutto quello che succedeva. Sì, sì. Un'altra citazione che invece condivido è quella di Valerio Bianchini, leggo oggi: uno tsunami emotivo che si abbatte su un terreno piatto e senza personaggi, sottoscrivo, col sangue. Ma guarda, ti dico, io leggo anche che c'è qualcuno che pensa che sia tutto artefatto. Ma chi? Non lo so, ci sarà. È vero quello che ha detto Bianchini, corrisponde alla verità, ma è soprattutto vero quello che ha scritto Matteo Soragna, che mi stavo caccando addosso. Letteralmente, no, veramente, non ho mai sofferto così in vita mia, ma anche perché il nostro campionato è stato burrascoso. E quindi diciamo che la mia reazione non è poi così dettata da solo e semplicemente a quello che è successo domenica, ma è un qualcosa che poi insomma covavo da quando ho lasciato Varese, ho sempre sognato di tornarci, quindi insomma tante cose lì. Mentre c'è Luigi che scrive che tutte le ore sono buone, io ti sottolineo che riesce a intortarti perfino le ex fidanzate, Maurizio Cacciatori è uno che spacca nel bene e nel male, ha una grande onestà di sentimenti. Sei veramente un paraculo, Poz. E poi poi ha messo giù il telefono, vaffanculo sto stronzo. Dimmi una cosa, l'ultima cosa: dove va Varese e chi vince lo scudo? Domande facili. Vabbè, la seconda è semplice, rispondo subito: Milano, con l'unica piccola incognita legata a Sassari. Dove andrà Varese? Spero che continui ad andare all'Hollywood la domenica sera, perché vuol dire che ci sarà qualcosa da festeggiare, ecco. Grande, la prossima volta Reale viene però, se no non vale. Grazie Gianma. Ciao, Gianmarco Pozzecco. Gianluca Lecce, buongiorno. Gianluca Lecce sul binario 6, buongiorno Gianluca. No, non c'è Gianluca da Lecce sul binario 6, adesso ne arriveranno degli altri. Complimenti al Poz da un tifoso canturino preoccupato dalla mia Cantù, spero di sbagliarmi, scrive Luca. Vista la partita di domenica, non una bella Cantù, ma credo sia davvero molto presto e tenderei a fidarmi delle grandi capacità artigiane di quel signore Pino Sacripanti che siede in panchina e dell'organizzazione canturina tutta, tenderei. Gianluca Lecce, buongiorno. È arrivato sul binario 6, eccolo qui, buongiorno. Dica. Mi chiamo Giuliano. Giuliano, benissimo, sbagliato tutto. No, ma non è un problema, per quello che non avevo risposto prima, perché ma ha scritto Gianluca, io leggo Gianluca. Sì, no, ma infatti ho collegato perché la ragazza, quando mi ha messo in diretta, intanto ringrazio per la convocazione. Grazie a lei, dica. Faccio un saluto a Postecco, che ho avuto il piacere di vedere molte volte giocare a Bologna, ancora nella grande fortitudo. Detto questo, volevo accennare due cose velocissime legate al discorso della nazionale, visto che ho chiamato anche per quello. Il mio modesto punto di vista, da persona che ha giocato tanto calcio, è che molto spesso le partite sono anche un fatto psicologico, sì, specialmente per le squadre piccole, come possono essere le piccole nazionali, come quando c'è una grande squadra che sta per ammazzare un campionato, tutte ovviamente giocano con il coltello fra i denti, si ottengono un buon risultato anche, sì, per ma aggiungiamoci Gianluca, Gianluca non è Gianluca, non ti preoccupare, vabbè, Gianluca, scusami, oggi, Gianluca. Oggi sei Gianluca, poi torni Gianluca, Giuliano subito, sì, dopo, sì, quello che voglio dire è che saranno squadre anche scarse dal punto di vista calcistico, e questo lo sappiamo, però comunque sono giocatori semiprofessionisti, comunque gente molto allenata, si gioca 11 contro 11, banalità totale quando non vengono espulsi ingiustamente dei giocatori, e se hai un allenatore che ti dice dove stare in campo e corri, crei delle difficoltà all'avversario. Io volevo rispondere a quello che ha accennato. Sono d'accordo. L'Italia ha vinto 2-1 contro l'Azerbaigian, Croazia gli ha dati 6. Non vuol dire assolutamente niente, perché sappiamo tutti che dopo una partita ad alta tensione psicologica, che hai quasi ottenuto il risultato che volevi. Certo. Allora facciamo così: se l'Italia ieri sera avesse giocato contro la Croazia invece che contro Malta, avremmo visto un'Italia nettamente diversa. Su questo ovviamente non abbiamo la prova, però se seguiamo un po' il calcio sappiamo ragionevolmente che sia questo, cioè l'Italia non avrebbe beccato 6 gol, non avrebbe beccati neanche 4, avrebbe giocato un calcio migliore, anche perché molti allenatori, soprattutto nel basket, come ad esempio il maestro Dan Peterson, ti dicono che è la squadra più debole che determina, cioè che fa scendere il livello del gioco, è quella che ti porta, ti trascina verso il fondo. È chiaro che se si tratta di Italia-Malta è qualcosa che non sta in piedi, però è vero che è la squadra che è nettamente più debole, che ti impedisce di giocare bene. Poi magari trovi, invece di trovare quei 4 pali, trovi 3 gol, siamo qui a parlare di un 4-0, e l'ascoltatore di prima magari direbbe grande Italia perché ha segnato 4 gol contro Malta. Non è così. Stefano Treviso, grazie Giuliano, non Gianluca. Stefano, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Spero che lei si chiami Stefano, sì. Assolutamente, non sì, c'è da quando sono nato, direi. Perfetto, perfetto. Senti, sulla questione della 1300 sterline per il mantenimento della figlia di Balotelli, a me sembra equo come cifra. Considera che c'è una bambina di 2 anni, 60.000 euro all'anno, diciamo che... facciamo una giusta premessa, notizia di cronaca, sono fatti loro, 1300 euro a settimana sono 5600 euro al mese, Balotelli prende 6 milioni l'anno, sono un sacco di soldi, però da lì mi astengo da ogni commento sulla vicenda. Ma intendo dire che è vero che lui guadagna quello che guadagna, ma è anche vero che le necessità della bambina di 2 anni, cioè, non sono in proporzione a quello che guadagna lui, insomma, solo questo devo dire. Va bene, mi arrendo su questo punto, alzo le mani e mi arrendo, perché non voglio commentare oltre su questa vicenda, okay. Mi manca solo quello. Grazie Stefano. Okay, ciao Davide, provincia di Pescara, buongiorno. Buon pomeriggio e grazie per la convocazione. Dica. Una domanda semplicissima. Volevo sapere perché secondo te Verratti, all'essere considerato un top player, ricercatissimo al Real Madrid, ai più grandi club del mondo, e in Italia viene considerato, viene sempre messo in discussione e altro. Non lo che so. Ne pensa te? A me Verratti profitto in patria, diciamo. No, a me Verratti piace da morire. A me Verratti piace da morire. Secondo me dovrebbe, un giocatore con queste caratteristiche dovrebbe essere titolare fisso della nazionale. Poi si fa un sacco di filosofia, e se ne è fatto un sacco anche con Prandelli, no? Sul ruolo, e può giocare lì. E no, però non, all'inizio diceva non lo convoco perché gioca nel Paris Saint Germain nello stesso ruolo che occupa Pirlo, quindi non ho bisogno di un doppione di Pirlo. Adesso è tornato Pirlo, che si era ritirato dalla nazionale, allora torna in gioco questo discorso. Allora Verratti, Pirlo, De Rossi sono in 3, me ne serve uno solo, dice Conte. De Rossi potrebbe arretrare sulla linea dei difensori, quindi ne abbiamo due per un posto. Pirlo dice: io vengo in nazionale, ma se non gioco mi incazzo, e quindi le dinamiche sono queste. È chiaro che Verratti non è ancora a livello di Andrea Pirlo, cioè gliene manca un po'. È chiaro altresì che è molto giovane e che la quotazione che ha a livello internazionale è del tutto meritata, perché comunque con il Paris Saint Germain l'anno scorso ha giocato una grandissima stagione. Allora, Tavecchio o non Tavecchio? Fatemi sentire. Rispetto alla sentenza, certo, anche se non ho detto niente di razzista, beh, insomma, ho solo detto che quello tipo va, mangia le banane, ecco appunto, non... ma cosa c'entra, anche io le mangio le banane, certo, sì, le banane sono buone, magari, certo, non le vado proprio a raccogliere sull'albero come loro, no. A noi ci arrivano quei camion, ecco, ma... però non peggiori la... che loro, no, hanno proprio queste dita prensili sui, no, sui, no, piedi, che si arrampicano sui baba, no, ma non allora, perché c'è andare da una riana all'altra? Ma no, è un complimento, perché io non lo so fare. Sì, ma... mi piacerebbe, ma c'ho i piedi normali. Ma anche loro hanno i piedi normali, non... E poi vedi questi, sì, documentari dove questi di papà. Sì, ma là che si mettono tutti insieme, lì si spulciano, si fa, sono gli scolari, no, ma che fanno anche tenerezza. Sì. Che ti verrebbe da lanciare anche qualche nocciolina. E però così, così è peggio, Onestamente a me fa ridere, non lo so, 800 24 00 24, Crozza naturalmente a me fa molto ridere. Gaetano, Padova. Eccomi qua. Eccolo. Grazie. Allora, guardi, intanto io già su Conte mi sono espresso, non penso che sia un top allenatore, ma questo poco importa. Vorrei proporgli... Quali sono, allora mi dica quali sono i top allenatori. Beh, Ancelotti, Mourinho, tutti coloro i quali hanno vinto in Europa. Ah, lei mi dice, cioè, stiamo facendo paragone con i totem assoluti. Appunto, beh, certo. Però lui si atteggia a grande allenatore, ma questo è un altro discorso. Sì. Io voglio proporvi un ragionamento, no? Se Conte... Però quegli altri saranno quattro, cinque. Sì, beh, non di, certo, più. È un top, è un top, è chiaro. Quattro, cinque, quindi Mourinho, certo. Guardiola... Carletto Ancelotti, vuole metterci Mangalli, io ci metto Capello anche. Ci mette Capello, sì. E come emergenti, per esempio, Simeone, no? Che con molto meno ha vinto molto di più, ecco. Ma al di là di questo, adesso non per insistere, però Simeone io lo metto con insieme a Conte, che ha vinto tre scudetti in fila. Va benissimo, okay. Allora io però vorrei proporvi un altro ragionamento. Sì. Se Conte fosse, come dire, ancora alla Juve, no? E avesse la possibilità di scegliere fra Pelé o Pelé, non lo so, e Balotelli, chi prenderebbe per la Juve? Tutto qua. Secondo me né uno né l'altro. Né uno né l'altro. Se dovesse proprio sceglierne uno per forza, con la pistola puntata alla tempia, sceglierebbe Pelé, perché Balotelli, con il suo modo di lavorare, soprattutto quotidiano, non c'entra proprio niente. È chiaro che la distanza di talento, la differenza di talento non si discute, però per uno che lavora come lavora Conte, per quello che chiede ai giocatori, eccetera eccetera, non vedo attualmente giocatori più distanti da Antonio Conte, faccio per dire, di Cassano e Balotelli, perché con lui lui non riuscirebbe a vivere con loro e loro non riuscirebbero a vivere con lui. Poi per il resto abbiamo anche visto che, allora, Conte ha promosso titolare fisso di questa nazionale Immobile, che alla Juve non ha voluto, chiaramente. Giovinco con Conte non si alzava dalla panca, ieri si è alzato anche in ritardo, e comunque nelle ultime due partite è stato l'attaccante più vivo dell'Italia. Ha lanciato Zazza, che è un altro giocatore che era della Juventus e che Conte non ha voluto, e dunque fate voi magari i vostri conti. Mimmo, provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire a proposito delle esternazioni infelici di Tavecchio. Sì, non era lui, per chiarire, quello che abbiamo fatto sentire non era lui, era Crozza che lo imitava, che gli faceva il verso. Va bene, ma voglio dire, diciamo, una cosa che forse può interessare gli ascoltatori. Insomma, questo signore si è permesso di dire quelle cose in pubblico, no? In una conferenza stampa, in Lega. Sì. Per una simile cosa il prefetto di Perugia è stato rimosso dopo 2 secondi. Mm-hmm. Dopo 2 secondi. Io penso che non, che un trattamento del genere, nessuno si è indignato più di tanto verso il signor Taveccio. Solo questo. No, non mi sembra, non sono d'accordo. Cioè, moltissimi si sono indignati, Mimmo, moltissimi, tra convinti veri, professionisti della demagogia, si sono indignati tutti quanti, questo glielo posso garantire. Non dimentichiamo che Carlo Tavecchio fece quella infelice uscita in un momento in cui non era presidente federale, era in corsa per la presidenza federale, ma non era presidente federale, è chiaro, era una circostanza pubblica davanti alle telecamere, aveva comunque un ruolo istituzionale, però ancora non era presidente della Federcalcio. Presidente del Bologna diventerà invece un americano. Cantava una volta Lucio Dalla che l'America non è poi così, che l'America è lontana dall'altra parte della luna. Everything is done, the contracts are signed, the purchase agreement signed, finally, so I can go to sleep. And Wednesday we'll have the closing, as we predicted, and we'll start work immediately. Wednesday afternoon I will be in Casa Delta. Happy, obviously, for us. Un sacco di altre belle canzoni le ha cantate Andrea Mingardi, super tifoso del Bologna. Ciao Andrea. Come va? Benissimo, benissimo. E tu? Chiamatemi Joe Mingardi d'ora in poi, per favore. Joe Mingardi, Joe Mingardi? Joe Mingardi, no, perché tutti Joe, adesso mai Joe o Joy, Trasaputo, Tacopina, Joe Morandi. Joe Carboni. Senti, svolta americana, a Roma ha funzionato, adesso vediamo se funziona anche a Bologna. Certo che la vicenda societaria del Bologna è stata qualcosa di tra il grottesco, il patetico, il penoso. Sono contento che abbia trovato comunque una soluzione, poi vediamo, speriamo che diventi meno grottesca, patetica e penosa. Guarda, speriamo che la proprietà transitiva e il core business degli americani li porti a fare quello che stanno tentando di fare a Roma, cioè una grande valutazione dell'area tecnica per poi costruire delle cose che poi vengano sfruttate. Diciamola, mettiamola così, riguardo alla società che se n'è andata, mi permetto di dire per fortuna, non dimentichiamo che Guaraldi, insomma, in qualche modo in un certo momento tragico l'ha salvata, poi dopo ne hanno fatte più di chiave in Francia, perché questa è una cosa, oltretutto io poi immaginavo Guaraldi che andava in federazione insieme agli altri presidenti, cosa avrebbe potuto dire, non so, avrebbe potuto parlare se sono meglio i tortellini da panico, l'imbrodo, cioè non c'era nessuna merce di scambio, nessuna. Sì, Andrea, però abbiamo il professor Ferrero nel campionato italiano. Sì, no, questo sono d'accordo, certamente, però c'è anche questo fatto, se ci pensate bene, che è un po' romantico, no? Perché nei romanzi d'appendice c'era sempre a un certo punto uno zio d'America che lasciava l'eredità a uno sconosciuto, magari siculo, che si ritrovava a Calatafimia. Ecco, noi siamo un po' in questa condizione, c'è ancora questo sogno infantile che sta prendendo un po' la curva Andrea Costa. Sì, sì, ma come è giusto che sia. Il comportamento di Zanetti dal tuo punto di vista com'è stato? Ma guarda, io sono stato credo l'unico nell'intervista che ho rilasciato, che poi fra l'altro mi ha fruttato anche, bravo, sei l'unico che l'ha detto, ma dico io, se io fossi una donna anche piacente come il Bologna, magari un po' consunta, ma io, se qualcuno vuole conquistarmi, deve dire che mi ama. Sì. Cioè deve venire lì e dire porca boia, sono diventato presidente, ti volevo da tanto tempo, finalmente adesso ti ho e ti porterò sull'altare, chiamalo come vuoi. Sì. Non puoi avere un atteggiamento così e dire che Zanetti è uno che ha giocato anche a calcio. Sì. Insomma, è anche uno che io ho conosciuto, sicuramente un grandissimo imprenditore, che non so, la fare la gara tra lui e Saputo quanti soldi hanno. Ecco, questa cosa qui non mi è piaciuta, ma non mi è piaciuto nemmeno il comportamento dei soci del Bologna. Sì. Che pare che abbiano ceduto in questa finestra di ottobre, che è ancora percorribile per gli americani, che abbiano ceduto per una differenza di 600.000 euro. Stiamo sì. parlando del calcio, sono i tè di una stagione, capito? Sì, di intervallo. Sì, ecco. Sì, sì. E del resto poi le voci che correvano attorno a... sembrava ci fosse un virus negli ultimi tempi a Bologna. Infatti io dicevo che non lo chiamavo Casteldebole Casteldebola, perché era una roba tragica, perché arrivavano conti da pagare, e, diciamo, lavaggi triplici di maglie per risparmiare, insomma qualche cosa, cioè, che non attiene, diciamo, alla Serie A. Sicuramente anche Toir, quando è arrivato, lì volevo arrivare, sì, con te, Andrea. Lui non ha detto, ha comprato l'Inter perché era volere divino, e questo possiamo dargliene atto, no? Perché Dio l'aveva scritto, il suo Dio, non so, là, o chi vuoi, era scritto nelle stelle. Non è arrivato lì e ha detto amo l'Inter la follia. Allora ha ragione Berlusconi a dire no, io il Milan, che poi sia vero o no non lo so, il Milan ce l'ho tatuato sul cuore e allo straniero non lo venderò mai. Che poi, detto questo, io allo straniero, se è uno straniero serio, io glielo venderei pure. Guarda, forse tu sai anche come la penso un po' io in generale. Certo, Berlusconi, so, tra tutti i torti che ha nella sua vita, sicuramente non ha quello di aver mollato una squadra, lasciato una squadra in mezzo alla strada quando avrebbe potuto, anche per motivi giudiziari e politici. Sì. La gente mi chiede di continuo, adesso io sono in una sorta di paradiso soleggiato, ma come mai gli grandi imprenditori di Bologna, che ce ne sono tanti, scarpe grosse, cervello fino, non si sono attivati per prendere questa gloriosa società e evitare che andasse in Serie B? Noi siamo andati in Serie B in un anno, con 35 punti ci si salvava, cioè, ammesso e non dopo aver venduto il capitano, ecco, sì. E poi un giorno prima della chiusura dell'Iste, dichiarando che ce l'avevano pagato 9 milioni per poi mettere a bilancio 6 milioni e mezzo. Mm-hmm. Insomma, è evidente che il calcio non si sottrae alle logiche truffaldine. E tu cosa rispondi quando ti dicono così? Io dico che i grandi imprenditori di Bologna, anche quelli che non imbroccano un congiuntivo neanche a Massarli, che però si sono inventati degli imperi con delle intuizioni geniali, sono ultra settantenni e hanno capito che il calcio è una professione. E quando tu vai in federazione e ti trovi di fronte Lotito, Preziosi, con tutto il rispetto per quello che fanno nella loro vita, per tutto quello che vuoi, cioè, se uno non ha gli attributi e la conoscenza della materia, secondo me è destinato a soccombere, cioè, e quindi probabilmente questa professione, cioè il fatto che arrivino degli americani e che dicano ristrutturiamo uno stadio, portiamo la squadra entro 3 anni al 5º posto in classifica, cioè questo non cambia molto, perché il calcio, come vedi, sta depauperandosi in un possesso palla circostanziale, cioè come ieri sera l'Italia, una roba di una noia, che non vedo l'ora che qualcuno dribbli 6 uomini e poi dopo faccia una rovesciata e butti la palla non so, a Parigi, ecco. Non vedo più, insomma. Infatti anche il Barcellona, quando faceva questo tiki-taka, se la palla non arrivava a Messi, era una noia mortale. Eh sì, non si accendeva mai. Però, insomma, sai, Bologna, tu capisci che è uno snodo. Anche pensa che quest'anno hanno perso 100.000 turisti con questa questione della Serie B. Certo. No, ma non ho dubbi che sia, cioè, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di economia, stiamo parlando di soldi, perché a questo livello è tutto compreso, anche la politica. Certo, grazie, certo, Andrea, certo. Grazie mille, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, forza Bologna, ciao. Tutti convocati. Ma le due risate, li vedete tutti seri. Gino Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Se tu risate, dica. Io vorrei fare una riflessione sul discorso del nostro commissario tecnico Conte. Sì. Io credo che esistano ottimi allenatori di club e ottimi allenatori di nazionali, e le cose molto spesso non coincidono per un semplice fatto. Le squadre di club hanno la possibilità di fare una campagna acquisti, chiedono al proprio presidente di comprare il Vidal e il Pogba della situazione, si va a cercarli in Europa e nel mondo e si trovano. Sì. Il CT della nazionale ha a che fare con quello che il calcio italiano offre ai ragazzi, giovani e meno giovani, eccetera, eccetera. È triste pensare che noi dobbiamo ancora sperare in una pronta ripresa di Andrea Pirlo, che se non sbaglio è un classe come me, ha 35 anni. Uh-huh. Detto questo, io credo che un bravo allenatore di club, un bravo allenatore di nazionale sia bravo nella misura in cui riesce ad adattare il proprio credo, i propri moduli secondo allora, le stiamo, persone Gino, che... stiamo dicendo che sono due mestieri diversi e sono perfettamente d'accordo. Io non riesco più a vedere questa distinzione tra allenatore di club e allenatore di nazionale, cioè questi due filoni io non li vedo, anche perché l'ultimo allenatore italiano ad aver vinto un mondiale è stato Marcello Lippi. Non era un allenatore federale, non era un tecnico federale Marcello Lippi. Mi sbaglio? No, forse probabilmente mi sono spiegato male. Quello che intendo dire è questo. Nel momento in cui a un ex famoso cestista nascono i figli con la sindrome da nanismo, sì, è difficile ostinarsi a fargli fare. No, certo, bisogna adeguarsi ad esigenze diverse, sì. Esattamente. Allora, per esempio, per fare un commento tecnico che è una mia opinione personale, se noi vogliamo giocare e Conte vuole assolutamente giocare con, per esempio, una difesa a tre, è chiaro che bisogna avere tre difensori che abbiano delle caratteristiche non solo fisiche come, ma anche tecniche che il calcio italiano al momento non ha, perché sì, i vari Nesta, Cannavaro, Maldini non esistono più. Sì, dobbiamo dimenticarceli. Su questo sono d'accordo. Il giocatore più tecnico della difesa della nazionale italiana è Leonardo Bonucci. È Bonucci, con tutti i limiti che ha. Sono d'accordo con lei. Infatti io l'integralismo non lo condivido, cioè ripeto, fare commissario tecnico è un mestiere totalmente diverso dal fare l'allenatore, perché non si può stare sul campo tutti i giorni, perché non si possono insegnare certi movimenti, meccanismi, anche un certo linguaggio del corpo che per una squadra di club diventa normale. È chiaro anche che ogni allenatore porta in nazionale il suo libro di filosofia, quindi c'è quello che crede nel 3-5-2, quello che crede nel 4-4-2, quello che crede in un'altra roba. E quindi così agisce. Certo, ci vuole in questo senso una grande duttilità, cioè probabilmente anche una grande semplificazione dei concetti, dei meccanismi, eccetera eccetera. Si tratta di prendere quelli che secondo te in quel momento sono i migliori, non in quel momento, che sono quelli che ritieni i migliori, e di dargli un'idea di gioco, un'idea di squadra. Questo è il discorso da fare. È importante, secondo me, avere comunque un concetto di gruppo, cioè selezionare un gruppo di giocatori e su quello lavorare, perché questa è l'unica via. Se cominci a convocare anche sull'onda dell'opinione pubblica 200 giocatori in un anno, non vai da nessuna parte. Questo è il mio pensiero. Cioè, è giusto in questo si intende lo spirito dell'allenatore da club. Deve individuare e da subito un gruppo di giocatori su cui lavorare e quello tenere come ossatura. Poi se emerge qualcuno forte, chiaramente lo chiamerà. Giancarlo, provincia di Macerata, abbiamo pochissimi secondi, buongiorno, un minuto. Dica. Buongiorno, e l'autostrada, insomma, è messo male. È messo male dopo Mingardi le autostrade. Soltanto che io ho visto giocatori come ieri sera Marchisio e compagni sbagliare certi palloni da ragazzini. Sì. Categoria. Dopo voglia che si viene a discutere l'allenatore, questo o quell'altro. Giancarlo, la sento malissimo, è in autostrada probabilmente, se vuole ci sentiamo domani, tanto alle 2 siamo qui come tutti i giorni, faccio davvero fatica a tenere la comunicazione. Franco Pietanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, Claudia Schiattone, redazione, ciao a tutti. Viva l'ignoranza! Dunque niente, innanzitutto io sono principe da Brigata Veleno. Prova a fare 20 mesi di umiliazione chiuso in cella con due milanisti e un napoletano. Poi li voglio vedere quelli che c'hanno il coraggio di dire: ma il presidente bisogna dargli fiducia. Ma fiducia di che, oh? Io ho già visto i prezzi che vuol mettere per la curva l'anno prossimo, che sono il doppio di quelli di 2 anni fa. Ma che votano? Il sangue. Almeno rivedessimo in campo i soldi che cacciamo. Poi va a leggere i tifosi, però devono capire. No, io non c'ho niente da capire, ho già capito tutto. A venire a bere, che noi ci trattano sempre come se fossimo l'ultima ruota del carro. Invece, se voi sapesse, ma la prima. La ruota del carro, ma sta l'olio. Facinze, falla finita, vattene a dormire che domani c'è da lavorare, no? E comunque voglio dire, le chiacchiere stanno a zero, perché qua l'unica cosa che conta è che noi abbiamo ricominciato a perdere e tutta Italia ha ricominciato a sfondare.